Salva Danaio. Ancora buongiorno, è il 30 agosto, Irene Zerbini al microfono, 7 minuti dopo le 12 per parlare di fiducia. Fiducia dei consumatori, fiducia nel futuro, prospettive, possibilità, panico, cosa condiziona le nostre scelte quando facciamo la spesa alimentare e non solo. Prenderemo in esame modi di acquistare. Gli sprechi alimentari sono pazzeschi, ho scoperto oggi 180 kg pro capite. Questo quanto sprechiamo ogni anno in Europa, il tutto dopo una riduzione del 57%, quindi si registra in questo settore degli sprechi alimentari, se vogliamo, una china virtuosa, e rimangono di queste dimensioni. Perché sì, parleremo di crisi e di come la crisi sta facendo cambiare le nostre abitudini e i nostri consumi. Prima di prendere in esame però i vostri suggerimenti, per esempio, ponderate quello che comprate, fate una lista e una volta non lo facevate. Com'è cambiato il carrello della spesa? Quali sono gli articoli che sono scomparsi, che una volta forse comparivano lì tra gli scaffali? Quali sono gli articoli che sono tornati, perché addirittura c'è la ricomparsa di oggetti che sembravano spariti proprio così dall'inventario delle famiglie? 800 24 00 24 per le vostre telefonate e per i messaggi SMS 349 238 6666. Dicevamo, prima di prendere in esame le abitudini, la sociologia di questo fenomeno, partiamo dai numeri, partiamo dunque con un economista che ringrazio per la sua presenza, Mariano Bella, buongiorno. Buongiorno. Mariano Bella è il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Secondo l'ultima stima di Confcommercio, come sono cambiati i consumi degli italiani, cioè quali sono gli indicatori del clima di fiducia? Guardi, prima di dire questo io devo sottolineare due aspetti. Il reddito disponibile, sì, mediamente, cioè i quattrini che abbiamo in tasca, mediamente gli italiani sono passati da 18.600 euro a testa nel 2007 a 16.700 euro a testa nel 2012, quindi una riduzione di oltre il 10% e di circa 3.000 euro a testa all'anno. Quindi di fronte a questa riduzione dei quattrini che abbiamo in tasca, a causa di una serie di cose tra le quali voglio almeno citare l'incremento dell'imposizione fiscale, di fronte a una riduzione tale di reddito disponibile, le persone hanno tentato comunque di difendere i propri livelli di consumo, cioè hanno incrementato la frazione di reddito destinata a consumi, ma tuttavia non hanno potuto far altro che ridurre anche i consumi di circa l'8%. Quando ci sono riduzioni così forti che poi si trasformano... Scusi, anche... l'8% rispetto a quale anno? Sempre al 2007. Sempre al 2007. Perché il 2007, diciamo, ormai è un riferimento che è il riferimento prima della crisi, no? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e verosimilmente 2013 sono tutti anni in cui il reddito disponibile, i quattrini che abbiamo in tasca, si riducono in termini reali. Questo per dare, diciamo, il perimetro della crisi. Di fronte a una tale riduzione di redditi e di consumi, è difficile che le famiglie abbiano potuto conservare qualche aspetto della spesa come agivano prima della crisi. Quindi le riduzioni più importanti sono mobili e arredamento, vestiario e calzature, e poi purtroppo anche la spesa alimentare. E spesa alimentare in aggregato vuol dire che la qualità è costantemente diminuita, vuol dire anche che gli sprechi sono diminuiti, e questo è un aspetto positivo. Quando parlo di qualità che si riduce, non intendo, diciamo, dire che si comprano delle cose che fanno male, per l'amor di Dio, perché la garanzia di salubrità, quella è un dato di fatto, però non so, si compra più pollo, più coniglio, meno proteine nobili come vitello o come bue, questo per fare soltanto alcuni esempi. Certo, questo è un esempio molto eloquente, quello che succede a tavola. Le devo fare una domanda però, Mariano Bella. Sì. La tecnologia, anche in periodo di crisi, è sempre sempre stata additata come un settore che fa eccezione. Sì, esatto. Si spende meno per il filetto, però sì. Si compra l'ultimo iPhone. Adesso stiamo naturalmente semplificando in slogan. Sì, bravissima, è così? Bravissima. È così anche in questo ultimo periodo? Guardi, lei c'entra perfettamente la questione, cioè i consumi non sono più come negli anni 70, no, non possiamo dire che prima uno, negli anni 70 prima uno mangiava, poi si vestiva, aveva il tetto e poi faceva tutte altre cose. Oggi, soprattutto i giovani, ma insomma un po' tutti, hanno la tecnologia al primo posto nel gerarchia di spese. Cosa vuol dire? Che io posso rinunciare, non so, a un pasto completo la sera, magari mangio due tramezzini, ma non posso rinunciare, sempre che non ho soldi, sempre che non abbia soldi, a stare connesso per 4 ore, oppure a rinunciare a 2 giorni di telefonino. Questo comunque, il discorso dell'iPhone, degli accessori, del massimo tecnologia, era perfettamente vero fino diciamo a 3-6 mesi fa. Perché negli ultimi dati di cui disponiamo, negli ultimi dati dell'Istat, comincia a emergere qualche segnale di sgretolamento, di fragilità anche su questo, anche di questo settore. Sì, perché se non usciamo dalla crisi c'è poco da fare. La crisi agisce come dire come una specie di macchia d'olio che si espande lentamente e a un certo punto colpirà tutto. E qualche segnale, qualche scricchiolio lo stiamo vedendo sugli elettrodomestici, sull'elettronica di consumo e anche sulla tecnologia top, tipo iPad, iPhone, eccetera. Ci si sta molto attenti negli ultimi 6 mesi. Senta, Unilever, che è uno dei principali gruppi mondiali dei beni di largo consumo, sì, ha annunciato qualcosa che fa riflettere. Cioè utilizzerà in Europa la strategia che finora aveva usato solo nei paesi asiatici in via di sviluppo per far fronte al ritorno della povertà. Ebbene, questi istituti poi di marketing che a volte adottano o individuano dei comportamenti e mettono in luce ancora prima, se vogliamo, dei dati, quello che sta succedendo. Ebbene, cosa faranno questi di Unilever? Per esempio, shampoo che finora vendevano solo in Indonesia, no? Con confezioni singole per 2-3 centesimi, appariranno anche in Europa. Cioè, hanno dichiarato, se uno spagnolo, ma non credo che l'italiano faccia eccezione, non spende in media più di 17 euro quando va a fare la spesa, io non gli proporrò più un detersivo per lavatrici o per lavastoviglie che costa metà del suo budget. Vediamo che c'è anche un adeguamento del mercato, quindi è povertà anche in Europa o c'è, secondo lei, che fa i conti tutti i giorni coi numeri dal suo osservatorio di Confcommercio, c'è un po' di esagerazione in questo approccio? Non, secondo me non c'è esagerazione, anche perché noi economisti non diamo lezioni agli imprenditori e alle multinazionali, ma studiamo i loro comportamenti. Le multinazionali a un certo punto debbono porci una domanda: continuiamo a fare come se nulla fosse oppure modifichiamo anche la nostra offerta? Siccome la crisi macroeconomica c'è, si riflette poi sulla quotidianità delle famiglie, cambiano formati, formule, cambiano le porzioni, cambiano l'approccio e riducono i costi per fornire beni e servizi a prezzi bassi. È un po' in termini di prodotti di largo consumo quello che è successo già all'inizio degli anni 90 con i discount. All'inizio i discount dovevano essere qualcosa diciamo per poveri, ma poi si è scoperto che nel discount va chiunque. Anzi, è un segmento in crescita. Certo, ecco, io non ho nulla contro i discount, per l'amor del cielo, va benissimo che ci siano formule innovative, che ci sia, come dire, un pluralismo distributivo per cui le persone devono essere libere di fare la spesa dove vogliono. Però quando vediamo settimana dopo settimana, questi sono i dati Nielsen, che l'unico formato di vendita, l'unico canale di vendita che cresce il discount, questo purtroppo è un segnale della riduzione del reddito disponibile, della riduzione dei consumi, è un segnale di crisi. Grazie a Mariano Bella, come avete sentito è il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Cambio nella modalità di consumo. Ora abbiamo scattato questa fotografia poco edificante, se vogliamo. C'è chi ci scrive che rinuncia alla lombata disossata, alla vitella e altre cose. Ora non ho ben presente i costi di questi articoli, ma Daniela ci segnala rinuncia a queste proteine nobili a cui faceva riferimento Mariano Bella per risparmiare sulla spesa. E quelli che invece rinunciano alle confezioni singole e comprano pacchetti grossi sono tantissimi. Ce lo state segnalando voi al 349-238-6666. Ci sono delle modalità, dei comportamenti, delle modalità d'acquisto anche, che sono completamente nuove e che hanno come beneficio non solo la riduzione del costo della spesa, ma addirittura una vita più felice. Proprio così. C'è addirittura chi è riuscito a favorire la socializzazione tra abitanti di palazzi, di condomini che a volte nelle assemblee condominiali si prendevano, non voglio dire a parolacce, però si trattavano in mala maniera. Ringrazio per la sua segnalazione e per l'esempio che vorrà dare al paese, proprio così, Alberto Zanni. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un accento bolognese, dico bene? Bolognese 100%. Presidente di Confabitare, insomma, di spese all'ingrosso avevamo già parlato, non sono un fenomeno nuovo. Voi ne avete fatto, siete passati alla fase evoluta della spesa all'ingrosso, addirittura la spesa all'ingrosso per il condominio, come funziona? Sì, noi non è che abbiamo scoperto niente di nuovo, perché dei gruppi d'acquisto collettivi ormai se ne parla da tempo. Diciamo che noi l'abbiamo applicato al condominio o a gruppi di condomini, e quindi i condomini ci comunicano, fanno l'ordinativo di quella che è la spesa quotidiana che vogliono fare tra di loro, e provvediamo al CAB, che è il Centro Agroalimentare di Bologna, a fare gli acquisti. Tutta ovviamente prodotti ortofrutticoli freschi che arrivano al CAB freschi e vengono acquistati, solo che non vengono acquistati al dettaglio a sacchetti da un chilo, mezzo chilo, qualche etto, ma a casse, perché chiaramente gli ordinativi, quando si mettono insieme tante famiglie e tanti condomini, portano dei quantitativi elevati. Ma quanto si risparmia con questa procedura dell'acquisto? Ma noi abbiamo fatto i calcoli, più o meno, si arriva anche a un risparmio fino al 50% di quello che è il costo della spesa quotidiana. E chi sta aderendo? Cioè, sono tutte le famiglie di un condominio, sì, in genere partecipano? C'è un'adesione in crescita? C'è un'adesione in crescita, sono già parecchi condomini che qua a Bologna hanno aderito a questa iniziativa, e diciamo che nell'ambito di questi condomini la quasi totalità delle famiglie partecipa, anche là dove c'era un po' di scetticismo all'inizio, dove hanno iniziato poche famiglie. Dopo, quelle che non avevano aderito hanno visto quella che era l'utilità e le finalità di queste iniziative, quindi pian piano tutte le famiglie hanno aderito, arrivando fino, appunto, dicevo, alla totalità delle famiglie di ogni condominio. Intanto c'è un ascoltatore che ci tira le orecchie, Alberto da Como, dice: no, attenzione, non considerate proteine nobili quelle della carne. Questo è come definivamo prima, pre-crisi, la carne rossa, sempre proteina nobile. In realtà sono cambiati i consumi ed è cambiata anche la consapevolezza rispetto a certe abitudini alimentari. E io prendo lo spunto da questo SMS critico di Alberto proprio per far capire come questa crisi che ha ridotto sui consumi tante volte sia stata anche un'opportunità per tornare al fai da te, per esempio, per risparmiare, per essere più sobri e investire quello che avanza in tasca. Avete sentito, il reddito disponibile decisamente ridotto dai 18.600 euro del 2007, ora il reddito disponibile pro capite in Italia ammonta ad almeno 1.800 euro in meno per ogni singolo italiano. Ebbene, non sempre questo lo si spende come si faceva una volta, e tra poco vedremo come si sono trasformati i consumi in generale. Mentre continuate a segnalarci, c'è chi ha ridotto la velocità e la benzina perché ormai era una spesa che non poteva più sostenere. Una pensionata da un anno dice che ormai per acquistare pianifica meglio i consumi. Questa è Viola. Io ho ridotto tutto il possibile e sconto perfino in centesimi, ci segnala un'altra ascoltatrice, 349-238-6666. Per invece le telefonate 800-24-00-24. Io vorrei segnalare anche il costo della badante, sempre molto ridotto, anzi vergognosamente ridotto in Italia. Se quel servizio andasse pagato come un servizio professionale, sicuramente, e non gestito su contrattazione individuale come si fa all'estero, come con agenzie professionistiche, sicuramente la badante verrebbe pagata di più. Però, a prescindere da queste considerazioni, non è oggi la puntata dedicata a questo, sono a volte dei costi che molti anziani non possono sostenere. Cosa si sono inventati a Bologna? Non solo la spesa all'ingrosso. Lascio dire a lei, Alberto Zanni, cosa avete fatto nel campo del servizio alla persona? Beh, diciamo, la seconda parte del progetto del condominio è la badante condominiale, che si va a affiancare al progetto del gruppo d'acquisto condominiale di cui parlavamo poco fa. In cosa consiste? Nei condomini dove ci sono più famiglie di persone anziane che necessitano la presenza della badante, ci si procura, appunto, si impiega una badante all'interno del condominio. Quali sono i vantaggi di queste? Cioè, una badante, e lei, si che... pagano i contributi, la si mette in regola, certo, e tutto quello che è richiesto dalla legge, immagino. Assolutamente sì, senza fare lavori in nero, ma tutto regolare. Quindi quanto badante... paga alla fine una famiglia per avere, cioè, invece di impiegarla, diciamo così, full time, 40 ore alla settimana, immagino che questa persona vada a lavorare in più nuclei o con più pensionati, suddividendo il tempo. Questa badante, diciamo, lavora l'intera giornata all'interno di un condominio o più condomini limitrofi, al servizio di tutte queste famiglie, facendo le ore che vengono richieste, quindi due ore da una famiglia, tre ore da un'altra, secondo un po' delle necessità. Ma è una pianificazione fissa o si fa settimana in settimana? Ma per comodità e per organizzazione è meglio farla fissa, però naturalmente se ci sono delle condizioni che variano si va poi a modificare quelli che sono gli orari. Ma quante badanti di condominio avete? Al momento sono 15. È interessante. 15, no, sono, di realtà sono 45, 15 nel senso sono i condomini che fanno solo la badante, 30 sono i condomini che fanno sia badante che gruppi di acquisto collettivi, quindi diciamo per le badanti alla fine diventano 45. E, il vantaggio della badante è che tutta la giornata opera all'interno dello stesso condominio, quindi non ha perdite di tempo a spostarsi magari da una famiglia all'altra, magari da un capo all'altro della città. Il vantaggio delle famiglie è quello che pagano la badante solo per il reale tempo utilizzato, impiegata. Cioè, più o meno potrebbero esserci... Se vogliamo parlare di soldi spesi... Sì, vogliamo parlare di soldi, quindi è inutile che ci giri intorno, Alberto. No. Dica quanto si spende per questa badante. Allora, abbiamo fatto dei calcoli. Allora, se una badante lavorasse tempo pieno da una famiglia... Parliamo di quello che è lo stipendio, poi ci sono ovviamente anche i contributi, prenderebbe circa mediamente 1.200 euro al mese. E in questo modo le famiglie pagano mediamente, poi varia naturalmente dal tempo utilizzato, però su 200-250 euro al mese. Quindi beh, straordinario. Avete fatto veramente qualcosa di molto interessante a Bologna e con... la spesa all'ingrosso per tutto il condominio, per la badante. Ovviamente questo tipo di approccio in teoria si può estendere a tutto. Ci potrebbe essere l'insegnante d'inglese di condominio. Tutto quello che, certo, se teoricamente fosse un condominio con tante famiglie giovani, con tanti bambini piccoli, si può arrivare anche a quello che fa ripetizione. Cioè, è chiaro, no? Ma anche l'asilo condominiale è un altro progetto che... Il film in cortile, perché no? In tanti lo fanno. Molto interessante e volevamo condividerlo con gli ascoltatori proprio per innestare una lettura anche positiva delle ridotte possibilità d'acquisto, nel senso che questo può anche incentivare la creatività. Nuovi stili di consumo in tempi di crisi. Questo è il titolo di un libro. L'ha scritto Anna Zinola, una professoressa di psicologia del marketing dell'Università di Pavia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Nuovi stili di consumo in tempi di crisi. In che direzione stanno cambiando i nostri consumi, professoressa Zinola? come diceva lei prima, a mio avviso non è che si spende di meno, ma si spende in un modo diverso, oserei dire qualche volta meglio. Come diceva anche lei prima, per esempio, si butta via molto meno, oppure si cerca di utilizzare gli avanzi che abbiamo. Oppure ci si rivolge al fai da te. Nel mondo della cosmesi c'è stato un enorme incremento dei prodotti per la manicure. Invece di fare la manicure dall'estetista, uno la fa a casa spendendo meno, potendo cambiare magari più spesso colore dello smalto se gli piace e magari personalizzando anche la propria manicure. Questo è solo un esempio. C'è stato un incremento di vendite del settore smalti? Sì, enorme. E quali pare, altri? Con un numero così mi pare più 15%. Dovrebbe verificare i numeri Unipro. E quali altre abitudini, non solo tra le mura, ma sulle mura di casa, sono emerse in questi anni di crisi? Ma per esempio è tornata l'abitudine a risuolare le scarpe, che era una cosa che forse avevamo un po' dimenticato. A tinteggiare da sé? A tinteggiare da sé, assolutamente, costa molto meno tinteggiare da sé. Magari all'inizio non viene benissimo, ma poi si fa, piuttosto che a fare piccole riparazioni. Pensate che imbiancare costa 2 euro al metro quadro e i colorifici hanno fatturato il 18% in meno, stiamo parlando sempre del 2011, con i professionisti e con gli imbianchini, e il 10% in più con i privati. Esatto. Quindi non è solo una chiacchiera, è proprio documentato le vendite di prodotti per il piccolo bricolage. Adesso abbiamo parlato di tinteggiatura, ma ci sono le colle, le carte, i soprasmalti, tutto quello che serve in quel settore stanno aumentando nei consumi. Addirittura sembra sia tornata la macchina da cucire. È vero. Ci sono dei locali in Italia, anche all'estero, che affittano la macchina da cucire, ci sono le postazioni, esattamente come gli internet point, invece di affittare il PC, uno affitta la macchina da cucire per quell'ora o le 2 ore che gli servono. Quindi raduna tutti i rammendi o le riparazioni che deve fare, invece di rivolgersi a un professionista, li fa da sé. Sono alcuni degli indicatori di come sta cambiando la vita in tempi di crisi. Altri ce li date voi. Per esempio ci scrive da Bergamo Elena. Ora vado al lavoro in autobus e spendo 27 ore al mese. Prima ci andavo in macchina e ne spendevo 150. Per quel che riguarda l'auto c'è la segnalazione di Mino da Bari, dice che ha cambiato l'auto e l'ha presa a metano. C'è poi chi ci segnala l'aver sostituito la carne rossa con proteine diverse e cereali. Non solo spendo meno, ma addirittura vivo meglio. 349-238-6666, così che possiamo condividere le vostre azioni virtuose e farle diventare, chissà, anche uno stimolo, uno spunto per gli altri che sono all'ascolto in questi tempi che si profilano decisamente grigi, stando a quelli che sono i numeri che ci sono stati dati anche dall'economista. Pensiamo al tempo, quello vero, per un attimo, poi torneremo. Infatti ora è il meteo. Salva Danaio. Ritorniamo insieme, ancora buongiorno da Irene Zerbini. 33 minuti dopo le 12 stiamo prendendo in esame i vostri comportamenti. I piccoli negozi soffrono, le vendite di giugno, questi sono i dati resi noti ieri, le vendite al dettaglio nei piccoli negozi sono scese del 2,1% su base annua, mentre i discount alimentari, come segnalavamo, hanno avuto un incremento del 3,9%, questo è stato rilevato dall'Istat ed è dovuto chiaramente al clima economico in cui ci muoviamo. Secondo Federconsumatori Abusbef, giù i consumi su base annua del 5% nel 2012, quindi una vera e propria catastrofe dell'economia, una contrazione che equivale a una riduzione complessiva della spesa di 35,5 miliardi. Quindi non è solo che compriamo altro, compriamo veramente meno, ma la necessità aguzza l'ingegno, abbiamo sentito, sono cambiati i comportamenti. Ci stanno dicendo gli ascoltatori che sempre più persone acquistano dal contadino, i prodotti sono eccellenti, non solo costa meno, ma sono eccellenti. C'è poi chi pianifica gli acquisti e si informa prima di uscire, ce lo dice Gianluca, delle offerte ai vari supermercati, così da andare a colpo sicuro, andare lì e stoccare. C'è anche la pratica dello stoccaggio. C'è poi chi parla di risuolature che non sono sempre convenienti e denuncia i prezzi di alcune. Qualcuno infatti avrebbe chiesto a lui 25 euro per una nuova suola. Però è vero che il ritorno alla riparazione è un altro di quei comportamenti che sta registrando un incremento. 800 24 00 24. Buongiorno Tino. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Da dove chiama Tino? Io chiamo da Bari. Chiamo. Sì. Senta, no, volevo dire semplicemente una cosa. Chi non raggiunge più o meno quei tetti anche ridotti di cui voi avete parlato e che comunque queste procedure o i vostri consigli già li adottava da qualche anno, cosa deve fare adesso? Consigli e commenti. Cioè lei dice io già non ero un consumista di quelli per necessità più che per scelta, ho già tagliato tutto, ma dove si può risparmiare ulteriormente? Questa è la domanda, ho capito bene? Diciamo un po' polemica come domanda, ma nel senso così, diciamo, in generale. E tra pochissimo le risponderemo, Tino, rimanga in onda, perché ci sono delle soluzioni creative impensate e impensabili prima di mettersi a prendere in esame questi comportamenti, queste nuove abitudini. Nessuno mai avrebbe pensato che si potesse addirittura affittare una macchina da cucire per 6 euro l'ora, come gli internet caffè, ci sono queste macchine da cucire caffè, mentre la manicure fai da te è forse una di quelle soluzioni sotto gli occhi di tutti, come il bricolage, moltissimi già ci avevano pensato senza aver bisogno della crisi che li stimolasse. Gianni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chiamo da Bologna. Sì. Chiamavo perché avete parlato della badante di condominio. Sì, lì da voi la fanno, a Bologna. Sì, quello che però non si è capito, il datore di lavoro chi è? Il condominio, l'associazione? Sono quattro datori di lavoro, se sono quattro le persone che hanno la necessità di avere la badante? Cioè come funziona questo meccanismo? Alberto questo Zanni sarebbe una bomba. Alberto Zanni, come funziona? I datori di lavoro sono le famiglie che impiegano la badante, non può essere né il condominio e né l'associazione che organizza e coordina il servizio. Sono le famiglie che diciamo sono datori di lavoro, chiamiamole pro quota, cioè per il tempo che impiegano la badante. Se sono quattro famiglie, saranno in quattro a versare i contributi nella misura in cui utilizzano la badante? Esattamente. Sappiamo tra l'altro che lei se ne deve andare adesso a una conferenza stampa, perché presenterete un'altra iniziativa che si inserisce benissimo in questo clima di crisi. Tra pochissimo aprono le università, sono moltissimi gli studenti che si devono muovere fuori sede, ne abbiamo parlato anche da questi microfoni, i costi degli affitti insostenibili, poi c'è chi ci marcia. Voi avete trovato anche lì una soluzione creativa, qual è? Sì, l'iniziativa Nonni adottano studenti, che infatti presenteremo l'una in conferenza stampa qui in comune a Bologna. Però l'avete già fatto da qualche anno, a che edizione siamo? È la quarta edizione. E proprio ormai ci stiamo organizzando, perché presto riapriranno, fra poche settimane riaprirà l'attività dell'università. In pratica in cosa consiste? Consiste nel fatto che persone anziane, che siano sole o in coppia, che hanno disponibilità di una camera ammobiliata per vari motivi, magari perché il figlio si è sposato e ha lasciato la camera libera perché è andato a abitare via, o per tanti altri motivi, sono disposte ad ospitare gratuitamente, quindi senza pagare nessun affitto, gli studenti universitari che vengono a Bologna a studiare, quindi quelli che provengono da fuori province, da fuori regione. E quanti hanno aderito? Nell'ultima edizione sono 73 studenti che hanno aderito, sono 48 ragazze e 25 ragazzi. Che sono stati gratuitamente con questa ospitati, coppia di pensionati, insomma, esatto, anziani, senza sostituire le veci di un eventuale badante o infermiere, giusto? Assolutamente no, perché le persone, gli studenti che vengono ospitati, diciamo così, hanno il compito di fare compagnia, non debbono fare né le badanti e né tantomeno le cose. E il tasso di soddisfazione com'è? Lei che avrà parlato con questi che l'hanno già fatto, cioè ripetono l'esperienza l'anno dopo, scappano a gambe levate, com'è? No, la soddisfazione è alta, tant'è che chi l'ha fatto negli anni precedenti tende a ripeterlo sempre se si fermano gli stanchi l'anno successivo, ma non solo, sono gli stessi studenti che suggeriscono ad altri compagni di farlo, di studio, di fare, di aderire a questa iniziativa. E non solo per questioni di risparmio, anche non per solo economiche, ma anche perché si vive in una famiglia Lei pensi, le racconto un aneddoto carino, una studentessa che diciamo negli anni scorsi ha aderito a questo progetto, quindi è stata qui a Bologna ospitata presso una coppia di anziani, una studentessa che è di fuori Bologna, quest'anno si è sposata e al proprio matrimonio ha invitato anche i due nonni, diciamo così, che l'avevano ospitata a Bologna. Quindi si beh sì, poi nascono amicizie, è una questione di socializzazione straordinario. Esatto. Bravi, bravi, vi prendiamo a esempio. Lascio andare alla sua conferenza stampa, Alberto Zanni, grazie per avere diffuso così questi comportamenti un po' innestati dalla crisi, dalla necessità di risparmiare, ma che senza dubbio vanno nella direzione del contatto sociale e quello che si crea tra gli abitanti di un condominio, per esempio, e come avete sentito, tra nonni e studenti che arrivano a Bologna, ma si potrebbe fare un po' in tutte le città dove è presente un ateneo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Dica, com'è cambiato il suo modo di vivere, di operare? Abbassi la radio però, Giuseppe, spenga la radio perché c'è un eco. Ci siamo? La radio è spenta da circa 10 minuti. Sentivamo questa eco attribuita. Forse il mio telefono. Niente, volevo segnalare che io, in seguito insomma al fatto che siamo tutti quanti un pochino in crisi, da qualche mese ho cominciato a farmi il pane in casa, ho cominciato a cercare su internet soluzioni alternative per una alimentazione che fosse contemporaneamente sana ma che mi potesse spendere di meno, e praticamente sono arrivato a farmi quasi tutto in casa, pane, pasta, dolci. Ma è contento o è stressato? È contento o stressato per questo cambio? Sono contentissimo perché il fatto di essere passato a un'alimentazione più attenta, cioè, mi fa stare anche meglio. Grazie Giuseppe, grazie per questa segnalazione, non è l'unico, infatti sono molti messaggi SMS in questa direzione. Sì, sono stato costretto a passare al fai da te anche nel cibo perché non avevo più reddito disponibile, ci scrive Paolo. In realtà poi sto meglio e mi diverto a fare le cose per la mia famiglia. A proposito di sprechi alimentari, naturalmente l'alimentare è un settore centrale dell'economia, ben più importante dello spread. In Europa la quantità di cibo sprecato è 89 milioni di tonnellate l'anno, cioè pensate, 180 chili a testa. Questi sono dati raccolti da uno studio del Barilla Center for Food and Nutrition. Luca Ruini è uno dei curatori. Buongiorno Luca. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Ha sentito diversi stimoli, ora le famiglie stanno prestando o meno una maggiore attenzione agli sprechi? Ma sicuramente stanno dando maggiore attenzione agli sprechi, e questo è come sempre accade nei momenti di crisi, poi ci sono dei problemi ma ci sono delle opportunità. Era interessante già un paio di ascoltatori che hanno sottolineato il fatto di come, avendo cambiato alcune abitudini alimentari, poi in realtà sono andati anche verso un'abitudine alimentari più sane. Negli ultimi 10 anni le abitudini alimentari in Italia, ma all'estero in Italia, mangiamo troppo e soprattutto non mangiamo secondo quello che è raccomandato anche dai nutrizionisti, cioè molta frutta, verdura e cereali e meno degli altri alimenti, mentre questa crisi sta in qualche maniera portando un po' indietro e spostandoci verso anche un tipo di alimentazione che è da una parte più sana, dall'altra parte, anche questo è interessante, anche rispetto all'ambiente risulta essere anche ambientalmente più sostenibile. Infatti sempre con il nostro centro, col Barilla Center for Nutrition, siamo partiti quasi 4 anni fa a fare le prime analisi e una delle cose che venne fuori era che effettivamente, seguendo quello che sono le raccomandazioni dei nutrizionisti e quindi di mangiare più frutta, verdura e cereali, e in realtà anche da un punto di vista ambientale si è più sostenibili, ma anche in modo con dei numeri importanti. Beh, anche la riduzione di carne ha un impatto sull'ambiente immediato. Assolutamente, in modo significativo. Tant'è che infatti si suggerisce di consumare meno, di consumare proteine, ma anche che vengono da origine vegetale, che hanno da un punto di vista nutrizionale sono... Però 180 kg pro capite di spreco alimentare, adesso non sono fortissima in matematica, 44 etti, mezzo chilo al giorno quasi. Ma com'è possibile? Se stiamo parlando di crisi nell'area euro, se stiamo parlando di riduzione dei consumi, calo della fiducia, acquistiamo di meno, come facciamo a sprecare tanto? Ma perché negli ultimi, la crisi la stiamo sentendo negli ultimi anni. Negli ultimi 10 in realtà abbiamo sempre continuato a consumare e consumare di più, tant'è che uno dei problemi che stiamo affrontando anche noi in Italia, nonostante la dieta mediterranea e la storia, è che il numero di persone che sono sovrappeso sono aumentate in maniera significativa, poi in particolare i ragazzi più giovani e i bimbi. La cosa è ancora più preoccupante. Ma quali comportamenti si possono adottare in linea di massima per ridurre gli sprechi? Oggi noi abbiamo chiesto agli ascoltatori quale sia l'oggetto, l'articolo che non comprano più. Lo chiedo a voi che fate queste rilevazioni sul cibo. Come si può ridurre lo spreco? Ridurre gli acquisti? Riutilizzare gli avanzi? Cosa si può fare? Ma sicuramente sia l'uno che l'altro, perché da una parte ovviamente fare la spesa, andare a fare la spesa avendo bene in mente, quindi con la famosa lista della spesa, sapendo esattamente quello che si vuole andare a comprare in funzione del consumo che ci sarà se siamo a casa oppure se siamo in viaggio nei prossimi giorni oppure in funzione di quante sono le persone, questo sicuramente porta ad acquistare la quantità di alimenti che poi sono quelli che si consumeranno. E che non finiranno nella spazzatura. Esattamente. L'altro fatto è sicuramente la gestione di quelle che sono considerate le date di scadenza, su cui tra l'altro c'è tanta confusione, infatti è uno dei grandi motivi per cui un sacco di alimenti, soprattutto i freschi, vanno a finire dentro l'immondizia e che spesso si considera la data di scadenza quando sui prodotti c'è scritto consumare preferibilmente il preferibilmente in italiano ha un significato, quindi non vuol dire che se la data è esattamente quella del preferibilmente l'alimento non è più commestibile. Sono pochissimi gli alimenti in cui c'è scritto esplicitamente la data di scadenza. Comunque, secondo lei, per concludere, Luca, gli italiani stanno diventando consumatori più responsabili? Sicuramente sì. Un po' da una parte indotti dalla crisi e un po' anche dalla consapevolezza. Grazie e noi torniamo tra pochissimo insieme ai vostri suggerimenti in quest'epoca di crisi su come far la spesa per ridurre naturalmente le uscite. 800 24 00 24, il traffico. Salva Danaio. 48 minuti dopo le 12, un dato positivo su questo tema. La crisi intacca sì i consumi, ma non la cultura. Cioè, stando agli ultimi dati proprio usciti pochi giorni fa, secondo il rapporto annuale Federculture 2012, c'è stato un incremento in Italia in spese culturali maggiore di quello registrato da vestiario e alimenti. Nel 2011, infatti, in Italia la spesa delle famiglie nel settore ha raggiunto i 70,9 miliardi di euro, con un incremento appunto del 2,6 rispetto al 2010. Professoressa Zinola, lei che diceva non spendiamo meno, spendiamo diversamente, sorpresa da questo dato? No, mi sembra assolutamente in linea con quello che dicevamo prima, quindi magari si spende meno per l'automobile, si utilizza l'autobus, come diceva l'ascoltatrice di prima, e si va una volta di più al cinema o a teatro, o si compra un libro, lo si scarica sugli e-reader. Ma alcuni che ci segnalano l'utilizzo del seconda mano, cioè del vestiario usato e delle cose, del passeggino usato, secondo un'altra ascoltatrice, ammettono anche contestualmente che qualche anno fa non l'avrebbero fatto mai. Quindi lei ha notato c'è anche un cambio nell'approccio sociale al far vedere, al mostrare che si ricerca e che si vuole risparmiare. Assolutamente sì, quello che in gergo si chiama lo show off, no? Il mostrare, sì, il far vedere che sia l'ultimo modello di automobile piuttosto che l'abito firmato all'ultima moda non è più chic. È diventato molto più chic essere, tra virgolette, frugali, quindi essere attenti. Da questo punto di vista non ci si vergogna di dire che si è comprato, che ne so, il passeggino piuttosto che gli sci di seconda mano, oppure che si è venduto l'abito che si era acquistato per la cerimonia, che poi nella vita di tutti i giorni non si indossa, perché permette di monetizzare una parte del denaro speso, ma anche di risparmiare a livello complessivo, ambientale. Quindi forse atteggiamenti, comportamenti che prima si avevano, oggi si diffondono e sempre di più in rete si creano anche quei siti in cui si condividono suggerimenti e per il risparmio e per l'acquisto sostenibile e per la crescita che sia oculata e rispettosa dell'ambiente, quando magari una volta tra mamma, nonna, sorella e persone in famiglia già lo si faceva, ma poi lo si nascondeva, è così? Esatto, adesso lo si dice, anzi diventa quasi un motivo di orgoglio il fatto di aver risparmiato, di aver speso in modo intelligente il denaro. Si parlava prima del discount, no, adesso si va tranquillamente al discount e lo si dice, non ci si va più di nascosto la mattina presto utilizzando un sacchetto del supermercato. Si andava di nascosto la mattina presto? Questa era un'usanza che non ci avevano segnalato, quindi mi sfuggiva. A questo punto, secondo lei, il potere dei consumatori oggi, con questo potere d'acquisto in calo, è maggiore o minore rispetto a qualche anno fa? È maggiore, se non altro perché hanno molte più informazioni i consumatori. L'esempio più banale che mi viene in mente è il fatto che prima di acquistare una lavatrice, ognuno di noi va in rete a leggere i commenti degli altri consumatori che l'hanno già acquistata e che per esempio dicono: attenzione, questa lavatrice quando centrifuga fa un sacco di rumore, che è una cosa che uno non può sperimentare nel punto vendita. Chiaramente, quando poi se la ritrova in casa è troppo tardi. Questo aumento della consapevolezza dei consumatori fa sì che i consumi e i comportamenti in questo famoso supermercato cambino. Sì, è stata la crisi a stimolarli, ma a volte ci si ritrova con dei segnali di soddisfazione maggiori rispetto a quando si comprava indiscriminatamente tutto ciò che appariva sotto mano. I famosi 12 libri di cui si leggevano solo 5, i famosi film che poi non si guardavano mai, sono alcune delle vostre segnalazioni. 349-238-6666. Agnese, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamo per dire questo. I vari radioascoltatori che hanno chiamato si sentono tutti molto contenti e soddisfatti del mutamento delle loro abitudini, no? Tipo il consumatore che ha detto: io ho migliorato la mia dieta perché ho inserito i legumi e ho abbandonato le carni rosse e le carni nobili. Oppure quell'altro che inquina meno perché prende il tram, il bus e quindi risparmia e inquina meno. Che sono tutti comportamenti astrattamente meritati, ma in realtà le persone si sentono migliori, ma in realtà il ragionamento che in questo momento vige è che si deve fare di necessità virtù, quindi questi comportamenti sono comportamenti posti in essere perché non si può fare diversamente che così, perché prima nessuna di queste persone si comportava in questa maniera, quindi è una specie di inganno di comportamento, perché questi comportamenti avrebbero dovuto essere adottati prima. Passa anche il messaggio che la crisi è buona perché educa la persona, mentre invece la persona si comporta bene in una situazione di libertà. Ecco, quindi questo è un inganno. Certo, quindi lei dice la costrizione che ci spinge sulla via del ponderare, del comprare ciò che è indispensabile, in realtà fa sì, toglie ogni virtù a chi lo fa, toglie ogni merito a chi lo fa. E la crisi, non dimentichiamolo, certo non è qualcosa di cui vantarsi, da sbandierare o di cui si desidera una protrazione della durata, ma questo va da sé naturalmente, Agnese. Emanuele, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo complimenti per la trasmissione. Volevo inserire questa riflessione. Io sto facendo un trasloco e nello svuotare il vecchio appartamento mi sono recato diverse volte in discarica. Veramente mi vergogno della roba che si butta via e della roba che vedo buttare via anche un po' dagli altri. Fortunatamente poi la discarica funziona bene, si divide, si ricicla, però... Cioè, cosa ha visto in discarica che l'ha fatta vergognare così, che l'ha fatta indignare? Ma guardi, cioè, a parte le cose che io o la mia famiglia abbiamo stipato negli armadi e mai utilizzate, cioè si vede gente che butta roba quasi nuova, inutilizzata, cioè non so, bidoni della pattumiera marchiati con una griff, non so, Disney, piuttosto che stupidaggini di ogni genere, giocattoli, di tutto e di più. Cioè il concetto è che siamo andati avanti per 30 anni a consumare sempre in modo crescente, io penso che siamo andati diversi passi oltre. E quello che ci stiamo chiedendo oggi, grazie Emanuele da Como, non è solo naturalmente se abbiamo cambiato i comportamenti in un periodo di crisi abbastanza ovvio, come avete sentito, ma se un domani questa crisi dovesse finire, adesso tradotto in termini individualistici, se dovessero tornare nelle tasche degli italiani quei 1.800 euro che c'erano in più a disposizione nel 2007, stando ai dati di Confcommercio, siamo sicuri che torneremmo ad acquistare le stesse cose? Torneremmo a spendere come facevamo? O questo momento di riflessione e consapevolezza ci ha fatto cambiare, professoressa Zinola? Io credo che non si torni indietro, nel senso che ha ragione la radioascoltatrice prima che diceva, beh, insomma, abbiamo fatto un po' di necessità virtù, è vero. Però è anche vero che molti segnali un pochino più deboli c'erano già da prima della crisi, no? E poi la crisi ha fatto da acceleratore. Quindi da questo punto di vista non penso che si torni indietro, cioè, se avessimo quei 1.000, quando avremo, se avremo quei 1.800 euro in più, saremo comunque più attenti, più oculati o indirizzeremo in modo diverso i nostri acquisti. Così da azzerare anche questi sprechi di 180 kg pro capite in Europa di cibo sprecato e buttato. Questo è un dato che mette i brividi, letteralmente. Grazie a tutti voi che avete partecipato, ad Anna Zinola, a Luca Ruini, il curatore dello studio Lo Spreco Alimentare del Barilla Center for Food and Nutrition, a tutti coloro che ci hanno inviato segnali e messaggi SMS, a chi si è inventato la badante di condominio, geniale, e gli applausi vengono proprio dagli ascoltatori. Grazie in regia a Matteo Come, alla producer di questa trasmissione Barbara Bianchi, da Irene Zerbini, appuntamento a domani.